Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante e un saluto ai nostri amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, oggi tocchiamo una notizia che ha qualche giorno, ma è particolarmente interessante, non l'avevamo ancora segnalata ai nostri amici di Blu Radio Veneto. Sì, è di qualche giorno fa la maxi multa che l'antitrust ha affibbiato a Trenitalia, e mentre è datata almeno di un anno la battaglia che devo dire è stata condotta con grande forza da un nostro socio che da tempo ci aveva segnalato questa anomalia e questa problematica che è molto curiosa. Il problema è il seguente. Forse qualcuno l'avrà notato, sicuramente l'ha notato questo nostro socio, ma Trenitalia, almeno fino ad adesso, fino ad adesso che è arrivata finalmente questa maxi multa da 5 milioni, ha sempre, tra virgolette, nascosto sia sulle app, sia sul sito, sia anche alle biglietterie automatiche, la possibilità di compiere certi tragitti utilizzando dei treni più economici, ovvero i treni locali, che chiaramente prevedono sicuramente delle tempistiche di viaggio più lunghe, prevedono evidentemente anche dei cambi di treno, però permettono dei risparmi decisamente superiori rispetto per esempio alla Frecciarossa, e per cui sono delle opzioni che potrebbero essere appetibili per chi chiaramente vuole risparmiare, fregandosene di arrivare un'ora, due ore prima alla stazione d'arrivo appunto, e quindi optando per qualcosa di più economico. Trenitalia, Francesco, questo l'ha dimostrato l'antitrust, ma la denuncia, ripeto, parte da un nostro socio che vive a Mestre, ha sempre nascosto questo tipo di possibilità, quindi si andava alla biglietteria, si andava nelle app, si andava nel sito, e oggettivamente tutte le soluzioni che si cercavano erano tutte soluzioni che comprendevano le possibilità più costose, certo, soprattutto le frecce fondamentalmente. E praticamente per andare a cercare un regionale bisognava andare proprio con il lumicino, andare nel sito, specificare proprio nella ricerca che si cercava il treno regionale, e quindi bisogna andare proprio nello specifico, quando in realtà giustamente una azienda deve comunque dare la possibilità di poter scegliere tra tutte le soluzioni possibili, anche se chiaramente all'azienda stessa fa più comodo che uno spenda di più rispetto a spendere di meno. E quindi riteniamo che questo tipo di sanzione dell'antitrust sia anche una sanzione importante, perché dimostra anche come anche un singolo cittadino da solo possa veramente sollevare delle questioni molto gravi e molto importanti, andando anche appunto a multare un'azienda come Trenitalia, anche con una maxi multa molto elevata. E naturalmente adesso ci attendiamo una cosa, perché questo è quello che dice l'antitrust, ovvero che da adesso in poi, quando io vado a cercare le diverse soluzioni sulle app, sul sito, alle biglietterie automatiche, mi vengono proposte anche quelle economiche, perché qualcuno veramente può dire: faccio un viaggio di due ore più lungo, faccio tre cambi in stazione, però spendo la metà, spendo un terzo, quindi è giusto dare più, certo, possibilità. Dovrebbero esserci come delle opzioni all'inizio e chiedere: vuoi la soluzione più veloce o quella più economica? E da lì dare le possibilità di scelta all'utente che deve prenotare o organizzarsi un viaggio utilizzando i treni. Beh, è una bella cosa, una notizia interessante. 5 milioni di euro, quindi questa multa che è stata data a Trenitalia grazie alla denuncia di un utente. E quindi è bene quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, che queste cose vengano fuori, vengano alla luce, perché poi magari c'è qualcuno che riesce a metterci una pezza, come si suol dire. Beh, grande questa segnalazione che abbiamo fatto, grazie all'Adico che ritroviamo tra qualche giorno, e sicuramente racconteremo anche qualche altra novità. Grazie a te Gianluca, a fra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci,